Okay. Prende in mano il destino fino a partire alla conquista del trono e portartelo in mano sfondando anche il muro del suono. Ma io quello non sono. È che senza dubbio tu sei una che si merita il meglio che ho. Io invece purtroppo certezze nessuna. Però una cosa la so, il taglio sul ginocchio, la bici nel fosso, il pugno nell'occhio, ogni semaforo rosso. Soltanto di business e legge riviste di fitness e dimostra come passi un trofeo. Sfoga lo stress, giocando a squash, fa yes yes. Se parla col boss, ma io no. Però senza dubbio tu sei quella che si merita il meglio che c'è. Se lui è dolcificante, io una caramella. E lascio scegliere a te la mia prima sbronza, anche la seconda, il poster nella stanza, il viaggio in ambulanza. Fu per arrivare a te. Ogni donna sbagliata, il diploma per un pelo, quella gomma bucata mentre tuona il cielo. Odiava la fuga da casa, il tuffo da 6 metri. Quando scopri che nessuno guardava al posto di blocco, l'amore non corrisposto. Quando ho rubato poi m'hanno preso, neanche io ci credevo che avevo fatto il botto. Il taglio sul ginocchio, la bici nel fosso, il pugno nell'occhio, ogni semaforo rosso. Fu per arrivare a te la mia prima sbronza, anche la seconda, il poster nella stanza, il viaggio in ambulanza. Fu per arrivare a te. Dormire alla stazione, la manifestazione, il quaderno che ho scritto, il testo della canzone. Fu per arrivare a te. Ogni donna sbagliata, il diploma per un pelo, quella gomma buca mentre tuona il cielo. Fu per arrivare a te. L'agenzia faccia da casting di Franco Tartaglia cerca proprio te. Hai tra i 16 e i 20 anni? Vuoi ballare? Vuoi cantare? Vuoi diventare famosa? Noi stiamo cercando volti nuovi. Stiamo cercando te. Stiamo cercando te.